ci racconti una storia. I racconti di Laura Lorenza Sciolla. Alcune settimane fa abbiamo letto un brano di Pascal che suona così. L'uomo non è né angelo né bestia e la sventura vuole che colui che vuol far l'angelo faccia la bestia. È pericoloso far vedere all'uomo quanto è uguale alle bestie senza mostrargli la sua grandezza. Ed è anche pericoloso fargli vedere la sua grandezza senza mostrargli la sua bassezza. Ma è ancora più pericoloso lasciargli ignorare l'una e l'altra, ed è molto vantaggioso mostrargli l'una e l'altra. Non bisogna che l'uomo creda d'essere uguale alle bestie o agli angeli, non bisogna che ignori l'uno e l'altro, ma che sappia d'essere l'uno e l'altro. Oggi vorrei riprendere la prima parte del brano. La sventura vuole che colui che vuol fare l'angelo faccia la bestia. Questa frase mi ha fatto pensare a come, spesso, i più grandi soprusi vengono commessi con il pretesto e, quel che peggio, la convinzione di fare del bene. Quanto sangue è stato versato con la presunzione di purificare il mondo? La frase di Pascal mi ha fatto venire in mente uno straordinario personaggio dei Promessi Sposi, Donna Prastete, il tipico esempio di come si faccia la bestia proprio quando si pretende di fare l'angelo. Donna Prassede compare nel 25° capitolo dei Promessi Sposi. Donna di alto lignaggio, moglie dell'erudito Don Ferrante, si offre di ospitare Lucia dopo che, quasi miracolosamente, questa è stata liberata dall'innominato. Un'azione degna e caritatevole, eppure, leggiamo come Manzoni ci presenta la nobildonna. Era Donna Prassede una vecchia gentildonna molto inclinata a far del bene. Mestiere certamente il più degno che l'uomo possa esercitare, ma che purtroppo può anche guastare come tutti gli altri. Per fare il bene bisogna conoscerlo e al pari di ogni altra cosa non possiamo conoscerlo che in mezzo alle nostre passioni, per mezzo dei nostri giudizi con le nostre idee, le quali bene spesso stanno come possono. Con le idee Donna Prassede si regolava come dicono che si deve fare con gli amici, ne aveva poche. Ma a quelle poche era molto affezionata. Tra le poche ce n'era, per disgrazia, molte delle storte, e non erano quelle che le fossero men care. Le accadeva quindi o di proporsi per bene ciò che non lo fosse, o di prendere per mezzi cose che potessero piuttosto far riuscire dalla parte opposta e di crederne leciti quelli che non lo fossero punto, per una certa supposizione in confuso che chi fa più del suo dovere possa far più di quel che avrebbe diritto. Le accadeva di non vedere nel fatto ciò che c'era di reale, o di vederci ciò che non c'era, e molte altre cose simili che possono accadere e che accadono a tutti senza eccezioni migliori, ma a Donna Prassede troppo spesso e non di rado tutte in una volta. Straordinario, vero? Chi non riconosce il bigottismo, l'intolleranza, i pregiudizi di chi confonde il proprio, spesso limitatissimo, pensiero con la realtà? Peraltro, non è il pericolo che corriamo tutti, continuamente, anche quando crediamo di essere aperti, tolleranti, dall'ampia visione? Come facciamo a sapere se i nostri pensieri sono reali o sono solo dei fantasmi, dei veli che offuscano il reale anziché rivelarcelo? Il peggio però si ha quando pretendiamo che i nostri pensieri coincidano con quelli di, addirittura, Dio. Ecco come Manzoni parla del fenomeno. Giacché, come diceva spesso agli altri e a se stessa, tutto il suo studio era di secondare i voleri del cielo, ma faceva spesso uno sbaglio grosso, che era di prendere per cielo il suo cervello. Affermazione geniale, che dovremmo tutti inciderci nel cervello a lettere di fuoco, ma faceva spesso uno sbaglio grosso, che era di prendere per cielo il suo cervello. Quante volte nella storia i capi di Stato e della Chiesa non hanno preso per cielo quello che in realtà era solo il loro cervello? Quante stragi sono state giustificate dal grido «Dio lo vuole?» E quante volte a volerle era veramente Dio, che probabilmente di strage non ne vuole nessuna, e non piuttosto il cervello di qualcuno che credeva di conoscere il volere di Dio? A volte mi chiedo che cosa provi Dio quando vede il suo nome appiccicato alle peggiori ingiustizie, alle violenze più vergognose. Ma non voglio lasciarvi con immagini di tristezza. Desidero invece lasciare di nuovo la parola a Manzoni, che con impagabile ironia descrive il grande affare di Donna Prassede, tutta presa dall'esercizio del bene, o meglio di quello che lei crede tale, con la servitù e con le figlie. Oltre il resto della servitù, tutti i cervelli che avevano bisogno, più o meno, d'essere raddrizzati e guidati, Oltre tutte le altre occasioni che cercava, se non soffrivano da sé, aveva anche 5 figlie. Nessuna in casa, a che le davano più da pensare che se ci fossero state. 3 erano monache, 2 maritate. E donna Prassede si trovava naturalmente per 3 monasteri e 2 case a cui soprintendere. Impresa vasta e complicata, e tanto più faticosa che 2 mariti spalleggiati da padri, da madri, da fratelli e 3 badesse, fiancheggiate da altre dignità e da molte monache, non volevano accettare la sua soprintendenza. Era una guerra, anzi 5 guerre, coperte, gentili fino a un certo segno, ma vive e senza tregua. Era in tutti quei luoghi un'attenzione continua a scansare la sua premura, a chiudere l'adito ai suoi pareri, a eludere le sue richieste, a far che fosse al buio, più che si poteva, d'ogni affare. Non parlo dei contrasti, delle difficoltà che incontrava nel maneggio d'altri affari anche più estranei. Si sa che agli uomini il bene bisogna, le più volte, farlo per forza. Straordinario, vero? Chi non ha incontrato almeno una donna Prassede nella sua vita? A risentirci. Avete ascoltato? Prof, ci racconti una storia. Un'idea di Adelaide Spallino. Programma curato e condotto da Laura Lorenza Sciolla. Regia di Dario Albertini. Prof, ci racconti una storia è una produzione Radio Libriamoci Web per Associazione Culturale Clarite. Licenza Creative Commons 2.5. I racconti di Laura Lorenza Sciolla vi danno appuntamento alla prossima settimana.